Fabrizio. Sì, avanti. Meglio. Guarda com'è. Abbassa l'amplificazione. Aspetta, proviamo questo, guarda se lo amplificato. Abbassa un po' se puoi abbassare l'amplificazione che stai strappando. Sì, dal microfono. Boh, perfetto, ma la vuoi? Non ho fatto niente, ho detto solo dal microfono. Forse ero io che avevo... vabbè. Guarda, invece una cosa, guardami il segnale, che provo a dargli un aiuto. Oh, così è aiutato, eh? Allora andavi da 8 a 9 e 20 quasi, con l'aiuto arrivi a 9 e 25, 9 e 30. Caspita, dobbiamo farlo, dai. Cosa mi dici? Secondo me la radio ha migliorato parecchio, è un bel amplificata. Così senza niente, eh? No, volevo sapere se cambiava con l'aiuto, capito? Adesso tieni presente questa modulazione qua, così è senza niente. Il watt dell'apparato adesso l'ho aumentato e volevo sapere se la modulazione andava a saturare o meno. No, sta andando perfetta, sempre perfetta. Beh, sono contento. Non sai che l'amplificazione va molto meglio, non te l'hanno detto? Non l'ho detto perché magari non sapevo cosa stavo utilizzando. No, mi sembra così che vada molto, molto, molto meglio. Beh, sono contento che dia una di buona. Perché dopo che io gli ho fatto quelle modifiche a quella radio, che gli ho messo l'M80, gli ho fatto quelle modifiche, e tipo il doppio modulatore, per capirci, c'è tutta quella modifica che gli ho fatto sul modulatore, doveva spingere un bel, perché lui praticamente senza fare quelle modifiche rimaneva un po' chiuso, non mi ricordo, però dopo con quello andava bene. Però adesso è meglio del K, Capita, addirittura. Guarda, aspetta un attimino che provo a registrarti all'attino, va. Allora aspetta, vai avanti, fai un passaggio. Bene, questa è una prova di modulazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vediamo un pochino come sta uscendo questo mic, MV+5, cambio. Adesso te lo invio, aspetta, non ho fatto casino come al solito, aspetta. Aspetta, devo prendere il telefono che c'è per macchina, un attimino. Vai. Ecco. Allora vai e poi ti blocchi e riparti per un po', che ti faccio vedere anche i picchi di modulazione, vai. Allora, questo è prova del picco di modulazione. 1, 2, 3, ora. È aiutato ora, Così è aiutato. Adesso te lo stacco. Così è senza niente, con il watt dell'apparato. Ora, 1, 2, 3, prove tecniche di trasmissione. Lo riattacco perché voglio sentire il cambiamento della modulazione, così è attaccato. Bene, dai. Te lo sto inviando. Previa, vediamo, va. Quindi va bene, fa una bella copiata con questa notificata. Sì, io l'avevo sentito prima, ma non era così amplificata, perché dopo la modifica che ho fatto doveva girare così, secondo me era io poi, guarda, sperando che non ti crea più problemi, però comunque sono sicuro di una cosa, che ho trovato una corrente negativa sul VCO ed è quello praticamente che se sbagli la taratura ti fa sganciare il PLL, capito? Ci fa sganciare, ti sgancia e quindi ovviamente non agganci più il quarto e non oscilli, cioè quello che praticamente, e lì praticamente non riusciva a regolare la, a momenti la regolava e poi se ne scendeva, addirittura mi dava, perché deve dare 3,2 volte la caratura di quello, di quella deve fare, e lì mi dava una frequenza frequenze, ma mi dava una negativa. Cazzo, non sono uscito di testa, ho smontato diodi, ho fatto un po' i controlli, alla fine alla fine sono andato a portare un po' le masse e cioè, gli mancava una massa, là. Cazzo, sta caricando, Oh, qua si fondo scala, ma Fabri, credo che oltre non vada. Poi l'altro, guardate, sì, 9.25. Ma gli hai visto dov'è l'antenna adesso? E sto uscendo con 15 watt. Cioè, questo era il bit. Ma no, mi piace perché è comodo, la vostra qua, più in fretta a fare movimenti e vai sui canali dove meglio credi. Va bene, ascolta, vedi un pochino invece se... Allora, fammi capire una cosa. Così va in saturazione, è vero? Tende a trappare un pochino, no? No, mi sembra che addirittura abbia diminuito un pochettino la radio, lo sai? Sì, può essere. Allora facciamo così. Ecco qua. Come era prima, forse era così, se non sbaglio, Perché il watt di entrata verso l'amplificatore sono quelli che avevi messo in partenza tu, cioè proprio tutto chiuso. Se ne ignorerò un pochino di più tende magari a mangiarsi la radio, aumenta un pochino più di watt, però tende a mangiarsi la radio. No, magari tu prende la radio così, io non so se hai fatto hai fatto le prove con qualcuno che ti ha ascoltato con quella radio, ma ti posso garantire che sta uscendo una... Ah, poi guardati la registrazione, ti è arrivata? Sì, adesso la guardo. Guardata. Di lusso, ma di lusso. Ha dei picchi di modulazione senza essere attaccato, che sono pure la normale. Sì, hai visto la radio come adesso? Sì, va bene. Ha dei picchi quando lo stacco, mentre invece quando è attaccato ne ha di meno, però ce li ha. Sì, ma hai visto quanto è forte la radio, a parte i picchi? Vabbè, quello che gli avevo fatto, che modifiche gli avevo fatto, cazzo, me ne dico. Ma tu te rendi conto che quella di picchi gli ho fatta, quanto gli ho fatta 10 giorni fa? Me ne sono già dimenticato. No, vabbè, aspetta, ti faccio notare una cosa. Allora, adesso stacchiamo e portiamo, guarda. Mio. Allora, portiamo il watt a 5 watt, così sì, ora con picchi di modulazione a 12, però ora guarda quanto la diminuisce un pochino, no? Sì, però vai da 9.5 a 9.15, 9.20, quindi voglio dire va bene lo stesso. Adesso perché non si mangia, va entrando in watt e non si sta mangiando la modulazione. Probabilmente si creava un bel po' di problemi quella roba là che ho messo a posto. Probabilmente sì, perché là io la radio l'ho sentita, non era così, era bella, ma non era così. Adesso vabbè, speriamo che era. Quello era un problema grosso, e comunque sì, lui lì c'è praticamente una bobina che serve per fare la terza taratura, se non quando fai la parte Lucio, sono tre carature che devi fare, due con l'oscilloscopio e una col multimetro. Questa col multimetro invece di darmi deve dare, devi metterlo a 26.965 e lui ti deve dare, devi regolare a 3,2 con una tolleranza di un millivolt. Immaginati un po' quanto è la precisione che devi andare, immaginati un po' quando mi dava una corrente 0, negativa, 3, meno 3, meno 2, capito? Immaginati che casino stava succedendo. Sì, guarda, adesso ti faccio un'altra prova, lo metto a 8 watt, lo metto a 8 watt, lo metto a 8 watt, l'ho messo a 8 watt e va da 8 a 15. Vedi che comunque più o meno la modulazione è rimasta, mettilo intorno ai 5-6 watt e gli fai dare tutti gli altri picchi di sì, che è la soluzione migliore secondo me. Mettendolo così aspetta. ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5 watt. Sì, lascialo così, comunque vedi, non si mangia la modulazione come prima, quella roba lì, se tu lo vuoi fare tipo, lo vuoi far diventare tipo il, come cavolo si chiama, l'ANA 48 quando gli fanno quella modifica, lo metti a 2 watt, quando l'ho messo, non va, quando l'ho messo, e poi tu vedi, ma io, quando diventa impazzisce come, come PC, capito? Adesso che cavolo di modifica gli avevo fatta? Allora, gli ho fatto oltre il TR45, gli ho messo un paio di diodi, un condensatore, sulla modulazione, ho lavorato sulla, da quello però sulla modulazione, sul filtro ho lavorato, però poi, ma che cavolo gli ho toccato per fare dei picchi positivi, fammi ricordare. Oh yeah, cosa gli ho fatto? Cissu, ma te rendi conto che non me ne ricordo. Fatta quanti giorni l'ho fatta? Non sarà 15 giorni? Ti ha dimenticato ogni testa. Scusa un attimino, pronti, c'è una bassa. Ti ho chiuso il telefono in faccia. Aspetta che lo chiamo io. Avanti 10. Ce ne sono 10. Ora. Un attimo, Fabri. Ciao Tino, sono Gianni, buonasera. Ora. Sì, avanti. Ciao Fabrizio, buonasera. Ciao, aspetta che faccio una cosa, che entra Tino, gli dai un controllo di modulazione, se ti ricordi come usciva, per vedere se trovi qualche cambiamento. Sì, ok, dai. Qua mi stai arrivando come un ciclone. Ma sono... vabbè, l'importante è che arrivo forte, dai. Guarda, ho abbassato tutto l'RFGN e mi arrivi 9. Se faccio... vediamo un attimino. Così, vediamo, allora. Così come ti arrivo un po' più forte. Così hai superato il 9, però la radio si è abbassata. Ecco, così è il giusto, con un bel po' di picchina, così va bene. KK, ti ripeto, sono con l'RFG in tutto a zero, quindi figurati tu. Comunque, da casa mia si vede tutto il sistema radiante, complimenti, immaginati che l'antenna, questa antenna è tosante lì sopra. KK, ho dato una sbirciata col binocolo. Quindi siamo in linea d'aria, siamo un tiro di schioppo. Sì, lo so, usciacci. Vediamo se c'è un cavo che devo fare una prova, aspetta. Vediamo se è un trattino, lui mi viene un controllo anche tu. KK. Sì, Fabri. Sì, ci sono. Ascolta, un'informazione di servizio. Stamattina stavo guardando così, mi stavo facendo un'idea, due antenne della Sirio, non so se sicuramente le conosci, una è la Sirio GPE27 che è una 5 ottavi, mentre l'altra è una GPS27 però mezz'onda, più o meno il costo è il medesimo, cosa mi consiglieresti eventualmente? Ah, una è la Sirio, mi hai detto? Allora, una è la Sirio GPE Genova Porto Torres Empoli 27 ed è una 5 ottavi d'onda e ha tre radiali piccolini alla base, mentre l'altra è sempre una Sirio però GPS mezz'onda senza radiali. No, la 5 ottavi ovviamente è quella con i tre radiali, prendi, no? Sì, più o meno la cifra è uguale, e niente, quindi dici che è più conveniente dal punto di vista tecnico prendere quella, insomma, la GPE 27 5 ottavi, giusto? Assolutamente, in più guadagno, se tu vai a guardare se non ce l'ho quale caratteristica del guadagno, vedrai che il guadagno è nettamente superiore della 5 ottavi. Ok, positivo. Senti un po', guarda, sempre a livello così di informazione, ho visto su eBay c'è un tizio che sta vendendo una Mantova 1 usata a 130 euro, secondo te il prezzo com'è? Secondo me è troppo, anche perché se vai forse la trovi nuova, se vai da Grazi, se ne hai ancora. Infatti il prezzo mi sembra un tantino esagerato per essere un'antenna usata. Adesso te l'ho chiesto giusto per avere un parere, insomma, di un certo peso, dai. Sì, no, non serve a niente. Ok. Vabbè, per il momento sono con questa e vediamo un po' cosa succederà, vediamo se riusciamo a mettere su un'altra antenna, dai. Vedi tu, perché questo va, no, lunghezza 90 centimetri, no? Questo cerca dei puntali del tester nuovi, ne ho parecchi, ma quelli buoni li ho rotti ieri, purtroppo. Bene, merda, tiro, sono ancora al telefono, ma volevo chiederti un'altra cosa, però adesso mi sfugge, vabbè, appena me la ricordo già te lo dico. Ega. Fabrizio, eccomi qua. Lo telefono fino adesso, poi domani ti spiegherò, là. Ho capito. No, ero con un'altra persona, non ero con quell'altro. Allora, niente, siamo andati a fare le visite, tutto regolare, tutto a posto, tutto fuoriuscito, non ha riscontrato niente, quindi si riparte da zero. Sei stato anche fortunato. Sì, una fortuna sì. Dopo 4 giorni nel divano, sì. Vedi, adesso sto notando che fa 74, 75, 74, adesso è fermo a 84. 0,84, Quando muovo la portante ce ne va a 5. Sì, vabbè, quello è. Quelli sono giocato due frequenzimetri, ma poi non mi caccia a quarto termostato, qualcuno si può modificare. Vabbè, si gioca leggermente col pirulino, prova un attimino se riesce a bloccarglielo. È così, capito? Allora, puntali per niente, ampere, che passi oggi. Ascolta, fatti dare un controllino di radio. Chi è? C'è? Ero col volume basso, non so se c'è nessuno. Ciao, te Gianni, sono da questa parte. Ah, ciao Gianni, e Gianni già l'ha sentita questa radio. Com'è Gianni? Sì, mi sembra di averla già sentita, per cui non so cosa dovrei controllare. Allora, tu vedi quello che hai fatto una scommessa con me, che mi dicevi, secondo che radio utilizzi, ti saprò dire cosa stai utilizzando. In questo caso sei già 2 volte che sei andato fuori onda. Vabbè, già lo sai che, insomma, è radio umano est. Sbagliare ovest, quindi adesso vabbè, è da un po' di giorni che non ci sentiamo, quindi ho perso anche un po' l'orecchio, dai. Ciao, non è la spugnosa, quella no, perché la spugnosa non è parcheggiata, questa è l'altra. No, quello ti volevo dire Gianni, ascolta questa radio, però bisogna ricordare qualcuno che l'ha sentita magari qualche 4-5 giorni fa, per fare il paragone. Boh, non lo so, vabbè, io continuo adesso, era già parecchi giorni che non ci sentivamo, quindi non lo so, comunque mi sembra un ottimo segnale, una buona radio. Prego. Avanti. Prego. Il tutto è questo, già. Va bene. Va bene, ottima, come direbbe il buon Sparviero, ottima e abbondante. Quello non capisce niente, adesso entra così ma tanto l'ascolto. Avanti il brecco. Buonasera, saluto i circolari. Io vorrei un controllo sia di cellulare di radio, dove è l'azione, io sono molto rosello. Capo, ben ascoltato. Allora qua da Sassari Basso arrivi. Vabbè, c'ho l'RF gain abbassato, comunque 6-9 pieno, la radio per quanto riguarda il mio gusto personale è leggermente un po' alta, però va benissimo, tutto perfetto. Ok, grazie. Sì, molto rosello alto, diciamo. Abbassa appena, salve, buonasera, saluto i circolari a tutti. Ciao Daniele. Ok, adesso ti stavo chiedendo il nome, poi è arrivato Daniele. Buonasera Severio, ben entrato. Qui Gianni da questa parte, zona stazione comunque. Ah, saluto Gianni, ben ascoltato, per la primiera. Scusa la caffonaggine, dai. stavo per scontato, Savino la riva lunga comunque. Dopo tanto tempo stiamo rimettendo in moto qualcosa, vediamo un po' se c'è qualcuno, se si sente qualcuno. Ok. KK, sì, stavo interloquendo con Tino. Ciao Daniele, buonasera. E niente, adesso vediamo. Sì, qua ottimo, ottimo e abbondante. Puntella, non tocca nuda, è perfetta. Sì, ma io non ho toccato mai niente dal momento che me l'hanno data, ho solo provato a dargli un aiutino in più. Ciao Daniele, ciao, chi è l'altro? Saverio, chi è? Positivo, Saverio. Saluto Littino, ben ascoltato. Ciao Saverio, Santiago 7, eh? Santiago 7, Radio 5 è buona. Capa, contraccambio il tutto. 7 portate muta, modulati, arrivi 9, 9 più 5. Ultima radio, va benissimo. KK, grazie. Daniele, ha cambiato qualcosa invece da te? Se non trucchiamo la modulazione, ti. Vabbè che anche come amplificazione va bene di tutto, dai. Sono contento, speriamo che tenga. C'è anche Fabrizio, Fabrizio. Sì, ciao qua, ben sentito. Ciao Daniele, l'altra volta arrivava a 9.10 qua alla mia stazione. Fabri, ma devo abbassare? Devo, forse, non ho capito perché a stazione usate niente se non c'è bisogno. Boh. No, magari anziché abbassare devi abbassare le voci. Allora, tu che mi hai dato controllore arrivi 9 più 20 qua, eh. Un però 0 alto, 9 più 20. Io adesso sto cominciando con l'antenna che avevo, che utilizzavo in macchina, fra qualche giorno. Adesso da casa di mamma c'è una decina d'anni, lì la Matoma 5, poverina, si sta rovinando, c'è un super impianto di lì. Adesso me la scendo e poi vediamo, valutiamo se metterla qua o quanto costruire una Game Master, adesso poi vediamo un po' cosa fare, perché la Matoma 5 devo risalire per forza sul tetto. Con quella Game Master riesco a arrangiarmi anche qua l'albogiolo, visto che sono abbastanza in alto, vedo tutta la città. Ok, riprendi tu, comunque il tuo segnale è 9 più 20 alla 10.5, non so come mi stai ascoltando tu qua, io sono un po' precario, eh. Sì, sempre bene, radio 5 e 9 più 20, nessun problema. Quella, no, va bene, vedi tu Daniele, se mi rompi le scatole te lo rompo io, mi lasci il tempo 10 minuti e te lo sfondo con lo smitter, eh. Guarda adesso, sono 2 watt tondi tondi. Adesso va bene, adesso va bene, se no mi tocca a cacchio farti fare 4 giri allo Smith, eh. Daniel, se non c'è propagazione, lo sa, siccome io uscire con 5 watt, 10 watt, qua a livello locale ce ne vedi. Io sono con l'apparecchio, con l'antenna della macchina e tutti mi ascoltano. Adesso vediamo fra qualche giorno con l'antenna con la 5 ottavi cosa, se migliora qualche cosa, penso che a qualche punto lo recuperiamo. Attenzione binario 10, ascoltate il doppio room che chiama, Gambio. C'è il passaggio livello chiuso, Gianni, non puoi entrare. Ciao Gianni, doppio room. Ammassalo più, Aluce, no? E ho che vuoi vedere il contero, Gambio. Ciao a tutti, dai. Non mi sentivate, ho fatto un break. Allora, ho dovuto alzare. Non avete bocco che scioppa. Eccolo qua. Non avete bocco che scioppa. Siete fate bocco il gallino. Ciu ciu. La parliero lì, la becca lì. Ciao, salve. Avete bocco che scioppa, come diceva amico mio. Buonasera, cra. Mi ha ascoltato. Ne approfitto anche ormai. Ci sentiamo magari stasera sul concile, niente, divertita però. Fabri, ci sentiamo domani o stasera sul tardi, dai. Sì, vabbè, ci sentiamo. Claudia, come ti sembra quella radio adesso? Che ha migliorato un pochettino da come l'avrei ascoltata a questo punto. Fabri, non ho parole, è un K, per me è un K, se lui non dice niente è un K. Ottima modulazione, praticamente le tonalità sono da 10, ottima, ottima, ottima. Penso che ne abbiamo già parlato di queste cose, no, tucca, puntella, perché quello è a livello del K, te l'ho già detto l'altra volta che già si assomigliava, adesso è praticamente a livello del K, forse anche più bella. Guarda, questo è il K, non quello che c'è tu. Vai, vai, coccati, io sono un K, io sono un brutto. Va va bene. Però no, vedi, c'è una radio incredibile, cazzo, sì, è andata bene quella modifica. Ottimo Fabrizio, ottimo, ottimo, ottimo, ottimo lavoro veramente. Poi ti, e a tutti i VT, ma a me non mi butti perché si sente lo stacco, c'è differenza solo dello stacco tra il 60 e l'MB+5. E basta, però ti ripeto, come modulazione è da K. Vabbè, si riconosce, sì, si conferma, si riconosce lo stacco dell'MC60. Vabbè, perché l'ho voluto aiutare un pochino adesso, Perché vabbè, non ce ne accorgi. Vabbè, ciao. Sì, a me futti tu. Comunque, io sono entrato giusto a salutare e a vedere se stavo uscendo bene, perché ora Dolcetta e il tabacco mi aspetta, ho fatto anche prima. Ehi, va bene, anch'io non sto rientrando adesso, Mi sistemo un attimo, poi ci sentiamo. Daniele, per bisogno di tiro Fabrizio, siete a 50 metri uno all'altro, già sei 9 più 30 qua, quando attacchi che sono distante, immagina lui, non è attaccare lineare, usalo solo quando vai nei 45 lineare. Va bene 5 watt, e poi io sono a 10 watt modulati col 430. E ne avanza, se poi c'è gente da fuori allora ci facciamo sentire meglio, ma così va bene. Comunque un saluto circolare a tutti, Gianni, Fabrizio, Saverio, mi pare che c'è anche Gianni Rubrofetta, insomma dai. Ci sentiamo dopo per tutti. Ok. Ciao Claudio, buonasera. Anche doppio room posteggiata, io. Claudio, dai, buona continuazione, ci sentiamo dopo. Ciao Gianni, non ce l'avamo sentiti ancora, avanti. Io in versione 45 poco fa, là. Eia, però quando poi rientri in modalità salotto, staccalo, perché arrivi un bel forte anche qua, quindi mi immagino quanto arrivi da Fabrizio, che siete a 50 metri uno all'altro, arrivi troppo forte, devo togliere l'NB, devo abbassare di tutto e di più, a volte devo anche attenuare per capirti, quindi mi immagino la difficoltà che c'è lui ad ascoltarti. Va bene, dai, ok, vi lascio, ci sentiamo dopo. Fabrizio, se ci sei dopo ti dico qualcosa in riferimento a quel 440 che non sapevo cosa fare, l'ho aperto, ma è una cosa mai vista di quanto è nuova dentro quella radio, non c'ha osso da nessuna parte, ho tolto tutte le spirette a una, tutte lubrificate con lo spray, quello che ho comprato da Fusaro, quello a secco, messe tutte una per una e addirittura ha iniziato a dare qualche segno, nel senso che vabbè, il frequentimetro deve essere bruciato, qualche segno che la potenza ad esempio in FM c'è tutta, in AM a metà, in SSB c'è tutta, la ricezione è un po' gracchiante, un po' così, quindi si potrebbe riprendere la grande con la radio. Bobo, dai, ci sentiamo. Sì, va bene. Ma nuova è Fabri, nuova, veramente, deve essere che non è mai stata toccata, nuova, c'ha le fascette da tutte le parti, tutto in originale, tutto, non ho notato niente di strano, né sotto né sopra, anche la parte dei filtri è tutta luce, a cazzo non capisco, cioè come abbia fatto a non entrare ossido dentro, proprio non c'è nulla, niente, lucida dentro, lucida, bisognerebbe riprenderla perché è un peccato veramente, vabbè, vada lui cosa vuole fare. Dai, ci sentiamo ragazzi, divertitevela più tardi se coincide, Gianni doppio rutto per primo. Se si può riprendere dalla perfetta il ricambio è un peccato, dovrà riprendere, bisogna farla resuscitare, Fabrizio magari ci riesce a farla resuscitare. E se Fabrizio non aveva i casini che ha, invece la via avrebbe ripristinato la grande sicola radio. Cazzo, c'è l'accordatore più veloce del mio, è tutta funzionante, che è mezzo, adesso è mezzo sorda, prima era del tutto sorda, adesso è mezzo, giusto dandole una lubrificata così senza mettere le mani a nessuna parte, per carità, però ho visto l'accordatore attaccando l'antenna è velocissimo, il mio è molto più lento, quindi anche quella parte lì è funzionante, no? Adesso vediamo se riesco a convincere il proprietario se me la dà, mi la bago, mi la dengo e si mette a posto con la radio, perché alla fine poi avrà sicuramente cazzato da rivedere. Dai, ci sentiamo più tardi e Dubrofè, riprendi tu e fai girare, KK, ok, bene meda, bene meda. Dai, almeno ma stavo dicendo un'altra cosa. Cos'è che dovevo dire? Ah, vabbè, la cosa Fabrizio gliel'ho chiesta. E quindi tutto bene, tutto bene. Avanti Daniele. Capa, capa, io sono qua, dai. Riprendete. Sì, riprende, aspetta, mi sto allontanando un attimo, devo attaccare una cosa, aspetta, devo andare a prendere una cosa. Ma io gli sette ghizzulani, aspettando la propagazione stanzi, dovrebbe entrare in Lucca, e adesso si è comprato l'apparecchio nuovo. È chiusa la propagazione adesso già, ce la si un po' fa. Bene, come entro io non viene mai. Ma vabbè, l'altro giorno ho parlato con la Spagna. Guarda, ieri. 45. Cava, cava, no, è chiusa adesso. C'è di nuovo richiusa, ma non è ancora buona. Un po'. Salvini. Salvini è andata chiusa, è andata a lavoro. Lavorare, vero. E glielo ho detto, c'è quell'antenna che è piazzata a casa della madre, sta per tutte le tempere senza usare. Se tu li dai è piazzata la casa tua, e così deve fare il stacchio. So che come. E lui è in buona posizione lo stesso, dove adesso. Gava, gava! Vicino a casa, eh. Su in alto, Già ho visto dov'è. Metto più su di me, Via Manzoni, dove abita Franco Califfo. Ah, che sono un po' più su di te, io pensavo verso via Baldella, No, è lì, via Manzoni, via Leopardi, quelle traverse lì, dove abita Franco, di fronte a Franco. Ecco. Già va bene, allora. Una bella zona. Quella lì Franco arrivava bene. E ci ha venduto tutto Franco, poi non l'ho più sentito. E ci ha venduto roba anche che non era sua. Senza fare nomi. Va bene, va bene. Siete tutti a tiro di Fabrizio. Tutti in giro lì siete. Tutti in giro lì siete. Come glielo stavo dicendo, io da casa si vede molto molto bene. E niente, bella installazione. Bella installazione, sì. Siete tutti a tiro, a un tiro di schioppo da lui. Lo vede arrabbia che aveva posto l'antenna a 20 metri, se no mi distrugge a tutti. Poi quella della 27 ce l'ha su in punta, ragazzi. Allora, non ho fatto bene, ce l'aveva bassa, cosa almeno esce bene. Prima era molto più basso, adesso già va bene. Lui, cazzo, a fare la doccia, c'è il bagno occupato, porca miseria, va bene. Qua chiaramente a portata ottica arriva fortissimo. C'è davanti a te per forza, è davanti a te. Arriva fortissimo, sì. Siete tutti davanti a lui, ma davanti è vicino perché lui vi vede. È come io la mia zona, vedo, è normale, no? Però voi siete molto più vicino a lui. Ma tu, da dove sei adesso, la vedi quella di Fabrizio, sì? Da sopra il tetto, sì. Ok, ok. No, io te lo sto dicendo, proprio a portata ottica, ho preso il binocolo l'altro giorno e stavo curiosando, poi l'ho beccata e l'ho vista molto bene. Avanti già. Guarda, ma ha cambiato casa, Fabrizio è sempre lì, no? No, è sempre lì, sta ancora sistemando tutto e ha messo l'antenna della 27 sopra il traliccio. No, sta sistemando tutto piano piano. Cosa stavo dicendo? E figurati cosa arriva a me. È 9.60, mi arriva quanto Antonello Pomponio. Qua vabbè, lo smite di questo apparecchio, una volta che si abbassa il 9 praticamente è difficile che si muova, lui quasi arriva a fondo scala. E a me arriva a fondo scala. Vabbè, noi siamo, non siamo vicini vicini, ma comunque siamo a vista ottica. Lui è attaccato a Daniele praticamente. A Daniele, a te che sei col sovvico, lui è lì, è in mezzo. Va bene, dai, ho liberato il mio posto, dai, vado a dare una sciacquata. A dopo, ciao a tutti. Buona luce. Ehi, Dani. Ah, Rami Gianni Ghi. Quindi oggi a sé cos'è? No, sto aspettando a Luca che ci ha comprato un bel apparecchio che lo doveva provare. Però, dai, stasera ci sentiamo, ma non lo so se è adesso. Già l'ho sentito ieri, già gira bene, dai. Gira bene, ha voglia. E se entra più tardi, già verso le 8:30, quando rientra a casa. Io l'ho sentito prima di arrivare, perché l'ha messo in vendita e ha fatto le prove e ha fatto vedere anche il VAT e tutto quanto. Ha avuto fortuna a comprarlo. Buona, già va bene, la stessa mano di questa, Chi è che l'ha fatto quello? Rapido. No, con quello che stava modulando ci va un bel bene, ma bene però, aveva la voce bella proprio da orco. Chi è che vuole entrare? Avanti, Eugenio. Eugenio, questo qui è Antonio Riserva. Antonio, perché sta arrivando così basso? Ah già, chi è? Antonio Riserva. E sembrava Eugenio sta arrivando un bel basso. Tanto si è andato a vedere quella storia? Ah? Ho capito. No, ma dico, il prezzo l'hai visto su internet? No, non è A, c'ha MFM, basta. 2009, ah. E quello piccolino rimane, 6009, vero? Rimane ridotto come apparato. Dammelo a vederlo, che non ce l'ho presente. Perché io un 6009 l'ho visto, però rimane tipo apparecchio radioamatoriale piccolino e con i comandi del microfono. Magara. Ehi Anto, io più ti sento lì. Viene spillo si chiama. Oppure Johnny Stecchi, perché c'è caldo. Anto, a proposito, dopo me ne sono accorto, il messaggio che mi hai mandato tu l'altro giorno. Mi hai scritto una cosa e io ne ho capito un'altra, lo vuoi vedere, ho capito, invece hai scritto lo vuoi vendere, io ho scritto sì, fammelo vedere, pensavo che tu mi volessi far vedere quello che dovevi prendere, capito, poi ho scritto vabbè, fammelo vedere, poi dopo l'ho letto e ho detto no, vedere, vendere, ce l'ha scritto, ce n'era di gente, non lo so, c'è Gianni Rubrofetta, poi c'era San Vito, se ne è andato a lavorare, poi non so chi ci sia, avanti, tu boffe. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito, ti sento molto molto molto lontano rispetto al solito, cosa si comedi? Antonio? Riserva, hola, attenzione, canale 10. Gianni. Gianni chi? Uno. Dimmi Daniele. Ah, non sentivo più nessuno, hai detto che fine hanno fatto. Chi è che stava parlando sotto? Boh, c'era Antonio molto basso, quasi a livello del QRM qua da me. E niente, quindi boh, non lo sento più. Boh, ho sentito una voce di sfuggita. Va bene, dai, io chiudo, devo fare commissioni, sentiamo più tardi o alle prossime se coincide. Andavè, dai. Io per il momento sono qua, adesso non so se è rimasto anche Gianni, boh, vediamo un po'. Ci sono, io stavo leggendo un messaggio che mi ha rifatto. Sono qui. Andavex. Se entra Luca, ascoltiamo l'apparecchio suo, nuovo acquisto. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Sto scendo di radio, se stai modulando non stai uscendo di radio, sei Santiago 7 ma la radio non ne hai. Nada. No, stai uscendo. Ma tu lo sì. Qua c'è un apportante Santiago 2, però non sento niente. Io sento Santiago 7, però non esce di radio. Sì, qua sento, cioè, c'è solo un apportante ma non esce niente. E questo sì. E tu chi sei? Falconietto? Come lo da sorso? Indovinato? Tu sei Saturno, Falcone. No, sempre la voce Saturno. Questo va meglio, Falcone. Che è più chiara. Non è chiara chiara, ma è più chiara di prima. Ma in effetti deve essere così, dai. Comunque c'è Santiago 7, come mai non sta vicendo di radio, cos'è successo? Parla piano perché se no se li compri di nulla, è tutta passata la voce. Se c'è qualcosa da regolare, il mic game magari che è troppo alto, buh. Adesso se chiari schiarita, tu dovresti accederlo un po' prima, allora farlo scaldare. No, ogni volta ti sei sentito po, non si compra di nulla. Buonasera, buonasera. adesso, vabbè, ero convinto che fosse Antonio quello che stava cercando di entrare e che si sentiva, si vedeva la portante, però non usciva assolutamente niente. Sì, Gianni da questa parte, buonasera, sì, Sassarizzo Magnagaura, ok? Su 5A. Esatto. Gianni Rubrofetto. Ma modulava qualche anno fa, però... usciva sinceramente, adesso si chiama Gianni Rubrofetta, avanti già. Buonasera, sì, novizio sono, dai, sono rinato, quindi è già una seconda volta, dai, sì, comunque, visto che sono rinato, sono rinovizio, dai. Gesù, hai giusto. Modulava già anni fa, quindi questa è una seconda volta che non vizio, perché va mollato e poi ha ripreso, ma non sono ancora in pensione, almeno, che Dio ti ascolti, un bene di salute, oh, Falcone, ma un bene di salute non mi venirà, vabbè, là. Sarà tempo, senza di più va. Allora avanti, avanti su, riprendetela più. Beh, farà di sì. No, ho rilanciato a te. Chiama Gianni il profeta. Il profeta. Non capisco nulla perché c'è una spatta. Aspetta un secondo che vado a vedere, riprendi già. Qua sì, ci avesse qualche motore qua che mi stava creando interferenze. Da sorso comunque, Falconero, il segnale sale e scende comunque, quindi a volte ti riesco a sentirti, a volte no. Sicuramente non ci fa così, dai. Se parli tu ti porti appresso lo splatter, te l'immagini? Un secondo solo che mi assento. Gianni da questa parte dalla stazione, non so se adesso ti arrivo meglio, ti stavo dicendo poco fa che anche a livello di segnale tu, cioè non ti ascolto sempre fisso, il segnale si abbassa e si alza, capito? C'è propagazione. Attenzione collega, se ascolti l'isola sarda che fa chiamata, cambio. Tante no. Fare 5. Non ce n'è, da me non è vero. Deve essere riassorso allora. Ma qua non ce n'è portante. Guardate, non ne vedo nemmeno, non arrivano in macchina. Chi è che ha l'alternato? Magari sta facendo le prove perché non riesce a capire cos'è. A me non mi disturba, non lo sento nemmeno, figurati, manco sul cinto lo sento. Io saluto tutti, dai che devo uscire, mi hanno telefonato adesso. Ci sentiamo, buona serata a tutti, magari più tardi ci sentiamo, dai. Ciao già, ci aggiorniamo, ok? A fa già. Dai che c'è questo come da uscire. E poi devo andare in farmacia e dopo sono visto mancanza. Sta arrivando la stessa mondetta, chi interessa? Gesù 5 bombe di splatter qua, non riesco a capirci nulla. Passa a 20. Questo è a splatter, roba di spuglie va. Mi pare 23. Parla lui e ti copre di brutto. Sai che attacco l'altro apparecchio, così ce la bide in luce. Thank you. sento bene stasera, non lo so. Il segnale mi sembra che sia anche più alto del solito. Quindi qualcosa c'è attaccata. No, non c'è niente. Siamo lo ma. C'è tu l'attaccata. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ti sento più compresso già. C'è qualcosa che non mi... Non stai usando bene, ok? Quello è il Galaxy, no? Ascolta bene, che adesso lo staccato, cosa compresso, ascolta bene. Adesso sì. Ma che c'è, 2 secondi fa la staccata, ti metto che era compresso. L'ho fatta apposta, vedete. Vabbè, magari è troppo forte il microfono, aspetta. No, lascialo come era il microfono, è perché non mi sono accorto. Siccome c'avevo l'NB inserito, l'ho disinserito e ho visto che la voce era più chiara. Però ho visto anche il segnale che hai staccato, poco fa hai attaccato. La mappetta ne varia. Quando attacchi abbassa la potenza della radio. La roba, adesso sono... Sì, non è la prima volta, anche qua a volte c'ho disturbi elettrostatici di tutti i colori, non lo so, non lo saccio, vabbè, già non è nulla al tuo, a futidini. Sì, ho dovuto attaccare questo perché è un displaster e si potevano parlare. Sì, perché c'è Gian Maria sul 23 e tu ha detto uno splatter già nessuno. Lo sento io col 48, figurati tu. 48 è così, c'è poco da fare, c'è per tutta la merda. È un bel apparecchio, perché è un bel apparecchio, però come splatter le prende a nuovo. Ma io se ero lontano non dovrei sentire niente, invece intendo, vuol dire che cosa vuoi che funziona, no? Vabbè, dai. Avanti Antonio, riprendi. Non basta che ci stai raccontando, non ci vengo da raccontare io, a casa, campagna, lavoro, io sto sempre lavorando, sto sempre lavorando, io la mattina sono impegnato, a volte anche il pomeriggio, oggi lo stesso, fino alle 4:30, capito, come si dice, ho preso un impegno con un carissimo amico che eravamo a scuola assieme, c'è un'impresa, e sto seguendo alcune cose che lui non ha tempo. E dove? Ma è una barona o è una ciona? Ah, ehi. Me lo so, già lo so, me lo so. Un tuo amico quello. E come ci chiama il cognome? Già è. Allora poi che l'amico Dovio, chi sono 2 dipendente, padrone di sorse di Sennori ed è tutta la bassa angrona, Cavuri la Giambuccia. Amico da Torello Peru, Cavuri che ribonghi a Saietti, chi vuoi che li metta, capito? Ehi, anch'io sono contento che lui sia contento. Solo che per entrare lì ci vuole il concorso. E invece io mi sono già entrati 2, da quando io sono andato in pensione ne sono entrati 2. E chissà perché, cazzo, chissà perché. È uno di Giossi e uno di Buttondorra. Giocovaglio, Anto, capito? Giocovaglio. Giocovaglio, io purtroppo non ci sono più. Però quello doveva venire a lavorare dove ero io, con me, capito? Questo Luciano. Se no avete visto che avevo indagato meglio, perché quello che c'è che mi ha sostituito, che ha preso il mio posto, perché eravamo assieme, praticamente è di Cagliari, quindi non era futti nulla di stare a... Però io so già tutto, perché mi informano di tutto. Casualmente i 2 che sono entrati, cazzo, sono uno di Sorso e uno di Porto Toro, se no, capito? Signor Peru, no? L'onorevole, legato a Porto Toro. col dottore si è assorso, capito? Ma come si è assorso il dottore, lavorativo quello è... Io ho fatto un sacco di casino, un sacco di cose, che va 3 anni in più di me e ancora devi travagliare 3 anni. Sono già attento a non fermarsi assai, prima che lo mandano a Cosio, a Olbia, a travagliare, vabbè, comunque, tanto non mi interessa più, io adatto, sono in buonissimi rapporti per carità, però questi favoritismi a me non mi sono mai piaciuti, capito? Io il posto me lo sono guadagnato con tanto di concorso, li ho fatte tutte e quattro le società, prima le comunali per quanto riguarda eurodepuratori e Sinos eccetera, vabbè, dai, lasciamo per ci che stai niente, basta che faccia lo badrino, dai, c'è un due a fatti lo guru, capito già come funziona? È sempre stato così. Mio padre odiava queste cose, diceva che lui se lo doveva meritare il posto per entrare, no, per incursi, dopo magari sanno fare meno degli altri che se lo meriterebbero di più. Però purtroppo ci sono sempre stato, se no poi all'ospedale, ma io ti dico su di me, oia, ti dico su di me, infermieri, tutto di più, personale pulizia. Quello è il sindaco di Sorso, l'onorevole Bonfigli ha fatto l'ospedale di Sussinchi, però è così, ma adesso questo è contro la legge, capito? Contro la legge, perché Acciona è al 50% a convenzione pubblica, quindi capito? Il 50% è privata, come Manova. A Manova è della regione, ed è a convenzione pubblica e privata perché è un SPA, è una società della regione. Siccome la consociata di Abanova e Acciona ci vuole il concorso per entrare, anche perché c'è lo stesso contratto, io sono andato via col contratto regionale, quindi invece i politici non fatene altro che alzare la voce, ma poi questa persona in particolare è un dio già, è un dio, dove mette le mani lui sai pur certo che ne voga bene, tranquillo che ne voga bene, nonostante sia un grandissimo farabutto per me, lo dico a voce alta perché è un grandissimo farabutto, e comunque va bene così, sia andare alla società, figurati a me, che mi ha giovato 42 anni e 10 mesi, quindi per me ci vuole tutto impiccato, vai Antonio Riserva. Raffaele, io da rimanere a fare il caso ancora. Raffaele è entrato, perché lui è entrato proprio a lavorare, perché prima praticamente c'aveva il laboratorio a Senini e puntava delle visori, capito? E poi faceva il supplente a scuola. Veramente a lavorare lui è entrato nel 1997, ha vinto il concorso all'ESA, capito? 1997 ha vinto il concorso all'ESA, quindi immagina di tu canto di travagliare ancora. Ciao Antonio Giuseppe, ti dico solo una cosa, che su 800 dipendenti che eravamo tra il nord e il sud di Sardegna, io sono stato il primo senza l'età, con 42 anni di contributi che sono andato in pensione, su 800 persone mi. Thank you. tanto adesso sì, lo so, il problema che ha quella radio è quando l'accendi esce così, la devi lasciare un pochino a scaldare, accesa, come ti ha detto Gianni, capito? Se no è un casino. Lo so Arturo, lo so, però io ho lavorato da ragazzino, ho sempre assicurato, quindi non te la gente dica, io ho lavorato, la carta ci vuole, non si può andare in pensione se non hai 42 anni e 10 mesi di contributi versati, inutile che ne hai 38, 39, 40, non serve a nulla, 42 e 10 mesi, vieni pure a là, hai capito? A meno che non hai un'invalidità, allora vai in pensione con l'invalidità, ma ti bagano solo l'invalidità e però non ti bagano i contributi pensionistici dovuti, vai in pensione perché hai una patologia di invalidità, e quindi la pensione di invalidità e basta, e boh, è inutile che si canti a messa, capito? Perché anche nel mio settore, prima andare via io, venire, due o tre, io vado, prima di te vai, a chi guida non so come usava via, a chi dato non so come usava via, sì, domani, sono ancora travagliente perché l'Ips gli ha detto di lavorare sino a 42 anni. Ciao Anto, ciao, alla prossima, vai già. Ciao Pacomero, ci sentiamo. Sarà. Riserva. Senti a riserva. C'era. È parito. Antonio, riserva. Ma lo sai che ha fatto stare che era con mamma? No, un pelino abbassa già, cos'hai detto? Ho avuto il cane che è stato un bel male, si è preso un'infezione, lui ci passava da più di... da un'altra genitale. Oh, no, dal pisellino. Invece Filippo va a sedere. Filippo va a sedere, faceva la cacca praticamente in sangue. Già i molossi bisogna stare molto attenti. Ma cistite ha preso? Allora, sto facendo gli antibiotici, adesso è passata. Non facevo il tempo a pulire la casa e subito faceva male. Beh, già, io mi stavo anche preoccupando a livello di emorragia. Sono portato al veterinario, ho fatto l'ecografia, non gli ha trovato niente, a parte appena di rena, diceva ancora una cosa normalissima. No, dice, non c'è nulla il cane, non ti preoccupare che già gliela blocchiamo. Dato questi antibiotici, ma ecco, li ho dati per 5 giorni, ma ecco, comunque il minimo è 10 giorni. 2 al giorno, più che altro da infiammatori antidolorifici. Adesso già mi è passata, grazie a Dio, ma ti va fatto bene. Già, no, non è niente, anche io mi sono preoccupato all'inizio, ma... spesso gli ha dato l'antibiotico, tre giorni, si è iniziato nuovamente a fare le feci normali, tranquillo, si sforzava un pochino, però poi è stato bene. Stai attento, non farle annusare la pipì degli altri cani, stai attento dove vai, dove non vai, perché i molossi sono molto delicati, molto, molto, molto. Io infatti lo porto sempre nel pulito, prima lo lasciavo il boschetto dove vanno gli altri cani, non ci sto più andando, lo porto nel pulito, non me ne frega niente, anche, vabbè, lui non è fare marciapiede, però dove c'è erba, in altri posti, erba verde, pulita, poi la raccolgo, non me ne frega nulla, perché è un casino. Poi più vanno di età, mi già, sta attento, più diventano grandi, mi ha detto il veterinario, e più sono a rischio, capito? Ma non sai lui cosa ha fatto? Sicuramente l'ha leccata, perché via questo campo di ubi si lecca la capite già leccata. Deve essere con le delle femmine, la lecca e poi discende la palla. E poi si lecca la pisellina sicuramente. È quello lì che l'ha fatto per l'infezione, dopo l'ha detto così, che dopo che magari ha leccato la pipì e andate si ha leccato il pisellino. Dice, lei si mette in testa che viene anche a noi, se figuri se non può venire a loro che la brucia lo fanno, pipita, che faccia, ogni volta che vanno già lo tolgo, però non è contro natura perché i cani lo fanno tanto. I cani devono annusare, sì, è loro cosa, non usare, però bisogna stare molto attenti, già anche io lo tiro, lo faccio, non è più come prima, bisogna stare molto attenti, capito? E vabbè, già la fascia non è niente di grave, già va bene. Antonio Riserva, Bisese. Ciao, mica è grasso. Cazzo, ma non ti basta la cosa come ti sei? Ancora mangi dei banici. Ma cosa c'entra? Ti mangi una frutta, ti mangi qualcosa. Cazzo, il bambino dice ma niente alle 7 di sera. Che ne so? Sono le 6 e mezza, ora è fare merenda, a me da fare 4. E vabbè, c'è chi fa la pranzo a quest'ora. Capito, Claudio? C'è chi fa la pranzo a quest'ora. Vabbè, ma quelli sono... sono malati, capito? Noi abbiamo un amico che pranza alle 7 di sera, ma è malato, non sta bene. E lo faceva anche prima, è una questione di abitudine. Comunque ieri è venuto il medico fiscale, siccome è matto, l'amico mio, quando viene con chi è il medico fiscale, mi sembrava che fosse lui, poi ci ho pensato bene, un lato ce l'ho messa andata la sua. L'ha pettoluto, sono andato a mettermi la maglia e ho lasciato la porta aperta, e sono uscito fuori pensando che fosse lui, che fosse Marco, perché va l'ascensore e accoglie l'uomo che fa le feste. Allora ci ha visto quello lì, che ha cassetto, e questo qui, questo cane, è rimasto bloccato con la borsa. Non si impara, e anche Filippo fa così. Filippo fa così, quando suonano, io dico mi, chi c'è, vai, allora aspetta nell'ascensore, secondo chi è non lo faccio uscire, capito? Quando arriva Mario, quello di via Coso lì, che mi porta la bombola, via Pasqua, ehi, pensare di rivolgere, prima non vuoi entrare, mi Mario, allora fa l'ascensore, la isetta, deve appoggiare la bombola, prima tutto se la abbraccia, giro blocca, io vieni dentro, vai, vieni che metto la bombola a posto. Era un buon infatto, però prima lo deve abbracciare, se no non lo fate entrare. Poi va, questo è rimasto secco, era bloccato, una stampa presente ce l'hai, non vedi, venuto la maglietta 24, questo è bloccato comunque. L'ho fatto entrare dentro, a Taiso, e poi ho fatto entrare anche dentro, ma i cani se non si conoscono, non si sa, ha fatto un bel studio, ha detto vabbè, comunque, ha visto che ci sono, mi visiti, va visitato, vai, non è con la scritta, non è condizione di rientrare alla mano. Meglio così, vai avanti così, piano piano, si abbigliano i locci, cerca di andare avanti così, cosa che ti faccio già, non ti posso dire niente, tutto quello che abbiamo detto si sa oramai, va bene, cosa stavo dicendo? E tu Anto? Ah, ma te ne vai, con i fiuste? Ah, cazzo, vai, sempre lo stesso panino mangi tu, 20 anni che mangi prosciutto crudo e groviera. Non sempre, io mi ricordo quando via Grazia Deledda, nel laboratorio lì, panino, panino, sì, a me, mortarella, tu sempre prosciutto crudo e groviera. E come io, il gelato, cioccolato, fior di latte e panna montata, con la spuntatina di cacao sopra. Sempre così mi hanno preso, no? Da miei genitori, perché loro prendevano la cioccolata, mi piaceva un bel cioccolato, però c'è dentro il fior di latte perché è un gusto che mi piace, e poi la panna montata con la spolveratina di cacao, così mi piace un bel le cialde, fatte a portatore da quel bar che c'è vicino a mano, come si chiama, se lo mettiene, vabbè. Troppo tempo che non ci sono. Non me lo dite, adesso dov'è, ma non mi ricordo come si chiama neanch'io. No, gelato a me, buon cammino gornetto, gelati sfusi, poi coppe, ma coppe belle cariche, non cioccolato nuda, sempre soliti, gusti di 30 anni fa. Va bene, io adesso, isciu Maria, manco di 7 giorni ancora, non ne ho più voglia. Io devo andare in farmacia a prendere l'ordinato, devo googlare le varie medicine per il cane. Ho speso 60 euro, claro, tra antibiotico, antidolorifico e antifiammatorio, che è tutta una passata. 60 euro quasi. Certo, le costano, sarebbero ricchi. Cappa, vieni Ciccio al nonno, vieni, vieni, cosa c'è? Vieni dei nonni, cosa c'è? Guardando mi stai. È prezzo. Ticchi, ticchi, ticchi. Pare che faccia di zavatto, Gianto. Se calma così che già arrivo, andrò a casa gente così che già arrivo. Non si sono bellissimi i cani. Lui c'ha questa mania. Adesso però no. Secondo chi è no, secondo chi è no, se no già ti si attacca i voti. Lui è, ma cosa c'è questa finestra va giù un casino? C'era un vento chiuso. Che sto calmato, mi ha una perturbazione. Ciù ciù. Oh dai, io vi lascio che me lo fanno per il cazzo al piede, poi devo fare farmacia. Oh via. Guarda che ce l'è. Quindi, Claudio, un'altra cosa, quanto ti prende a te a fare un vaccino in veterinario? Claudio, che roba da saluta, ma non è stata. No, perché io questa l'ho pagata 50 euro, ma l'ho fatto per 2 anni consecutivi. Dove stai andando? Io sto andando adesso con il medicoltiere e poi devo andare in farmacia a ritirare le pastiglie di testa che le ho tirate, non ce le ho messe. Quanto mi ha preso? Io li ho fatti tutti, 80 euro l'ultimo. No, mi chiami, dai, quello che fai ogni anno. 80 euro? Io ho pagato 50 euro, me l'ha fatto solo per 2 anni, no, no, te la fossi 50 euro, manco in tratti vasi. 80 euro, 80 euro. Tutti, 80 euro l'uno, l'ultimo quando l'ha fatto, boh, a gennaio mi sembra, a febbraio. Vabbè, io l'ho fatto questo qui, adesso dopo che ho fatto il vaccino mi è successa questa cosa, io stavo pensando che fosse il vaccino che l'abbia fatto male, e loro magari tappano così, capito? Perché il giorno dopo che ha fatto il vaccino mi è successa questa cosa. Io, vabbè, è come io, li ho messo sereso, gli è venuta la febbre. Ho chiamato il veterinario, mi ha detto portamelo che voglio vedere, gliel'ho portato, mi ha detto non avesse reso, assolutamente. Un colpo d'aria, capito? Perché c'aveva anche un po' di moccio. Un colpo d'aria, quindi. A volte sono coincidenze. Infatti. No, io l'ho pensato, perché sa. Se succede il giorno dopo e ho pensato che fosse quello, però non è che gli ha fatto male, ha fatto andare la fiorga in corso, cuia. Te ne sapete se si è risolta, insomma. Già ne ho passato, perché cazzo è sempre con lo straccimano, c'è sempre se più pieno l'acqua a casa, cambiandosi di d'acqua e cose, sempre pulendo. Poi c'era un odore di sangue, Claudio, credi, che se non lo senti non ci credi, io pensavo che non si sentisse, invece l'odore del sangue si sente, cazzo, dopo fa lavare tutta la casa, e dopo che la lavata di nuovo ha preso il sangue. Cane, tocca a te, è un casino. E a me? L'ho avuto. Infatti è rimasto 3 giorni con Mario in campagna perché non si poteva tenere a casa, capito? Però è così. E vabbè, bambini sono, non c'è niente da fare. Occhio, che quest'anno ho detto il veterinario. Occhio, occhio, perché c'è un'invasione di zecche, con l'acqua che ha fatto, un'invasione di zecche, infatti le ho messo sereso già, e poi gli ho fatto una puntura antiparassitaria praticamente. Quello, il mare a mano che ci avevano in campagna, Aldo, quello che avete pronto a casa, ha fatto un vivo la gara. Praticamente l'ha fatto la zecca e gli ha fatto venire l'anemia fino a quando non lo faceva andare più del corpo e niente, se ne è andata. Infatti mi ha detto veterinario, saremo partenti, io ti ripeto, gli ho messo sereggio, ho già dato l'antiparassitario, Monica l'ha già lavato, tutto, adesso glielo porterò a fine mese di nuovo, non si sa mai, capito? E poi gli do nuovamente l'antiparassitario, però c'è già il collare, quindi vediamo se quest'anno è così come dice lui. Da 3 anni non ne ho mai avuto il mio cane, mai, manco una mai ne ho trovato. Vabbè che sono a pelo corto, però bisogna stare attenti alle orecchie, sotto le zampe, capito? Sotto la coda. ci sentiamo dopo allora, se coincido, se ci sono, a dopo. Avanti Antu. Dai, ci sentiamo, ciao ciao. Antu, figlia di UQSO. Sono venuto tanto, io l'ho chiuso un giorno che è arrivato, ricordo, all'improvviso, non ricordo, c'è l'amministratore, uno del condominio, comunque doveva dire cosa, non sono riuscito a chiudere la stanza perché c'è gente che non conosce, è un casino, e mi è venuto così, l'ho chiuso in cucina c'è la porta d'ingresso davanti, e poi una porta stile inglese costata 600.000 lire, stile inglese a vetri, però soffietto in legno, non ho inteso altro che boom, dalla porta è passata in mezzo alla porta, l'ha aperta in due, guarda là, questo è un leone, questo è un leone, è un orso, ha avuto un'intrombata, ha pigliato la rincorsa con la testa, è passata in mezzo alla porta a soffietto, l'ha aperta in due, praticamente la guida l'ha staccata, ha staccato la guida, proprio in due l'ha aperta, ma vedi carina, Anto, io non che mi si certo mia figlia, però è talmente bello, piccolino, ce l'ho già 8 anni io, è un bambino, lui mangia, dorme, c'ha il suo lettino, non disturba, è che sta sempre appresso a me dentro casa, adesso è qua, sotto la base, sotto il tavolo delle radio, mi sta appresso, aspettando a fare ora per portarlo, ma ancora è chizzo, porterò, io lo so, sì, 7-10 sono, troppo lo porto, mi preparo e lo porto, faccio una passeggiatina, lo so, però almeno esco, no, lo porto presto, stasera, così domani mattina lo porto presto, lo porto tardi, prima alle 9:30, alle 10 non esce, invece lo porto presto, così domani mattina esce presto, perché poi ci andiamo in campagna a vedere se l'acqua è calda, allora, la stessa cosa facciamo noi, perché c'è mia figlia a riposo domani, e quindi ce ne usciamo, sarò tutto in campagna, e boh, e basta, se no, trovi, anche così voi dirmi, prendiamo fuori tutto, domani è una bella giornata, domani dice che sono 27-28 gradi lo stesso, però non c'è vento, oggi c'era questo cazzo di vento, una rottura di balle, lo so, e vabbè, tanto il tempo suo, non è che poi sta, non è che quello è il tempo e quello bisogna fare, vabbè, dai, però beh, io ti saluto, lascio la radio accesa, però mi preparo, così me ne esco un'oretta col cane a farmi una passeggiata, quindi sono tutto il giorno a casa, tutto il santissimo giorno, non sono andato da nessuna parte, se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Kk, va bene, a dopo allora, grazie, coincide, ciao. Canal 10, c'è qualcuno? CQ10, c'è qualcuno a Sassari? CQ canale 10? Vedete canale 10, c'è qualcuno che ascolta Sassari? Sassari, esiste tutti i voti?